La scrittrice Barbara Alberti ha scelto l'esilio. Era da tempo nota la sua decisione di ritirarsi dal mondo. Oggi sappiamo che vivrà, fino alla fine dei suoi giorni, nel faro di Capo Finisterre, all'estremo nord della Spagna. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo La guardiana del faro. Шарманка шарлатанка, куда меня зовёт? Voci e pensieri per Barbara Alberti. Шагаю еле-еле. Mi trovo quassù nel faro di Finisterre, dove mi ha scaraventata Gianluca Nicoletti inventando questo programma. E tanto per cominciare, ecco, vorrei salutarvi. Saluto tutti quelli che soffrono per un amore impossibile. Perché lui o lei è troppo giovane, o troppo vecchio, o troppo sposato, o troppo ricco, o troppo povero, o troppo bianco, o troppo nero, o troppo maschio, o troppo femmina. Saluto quelli che devono andare a casa trafelati, nascondendo i segni dei baci. Saluto quelli che si amano in silenzio, da 5 minuti o da 15 anni, e forse non se lo diranno mai. Saluto la ragazza amante di un uomo sposato, che soffre per anni, vicino a un vigliaccone, che non lascerà mai la famiglia e che dell'amore e della vedovanza perenne la consola, appena fatto l'amore, col piantino del coccodrillo e parlandole bene della moglie, la martire, la santa, colei che viene offesa, da lui, lei che c'entra, nemmeno la conosce. Mando il mio saluto appassionato, la mia solidarietà alle coppie irregolari, all'uomo che ama l'uomo, alla donna che ama le donne. Un cenno d'intesa fra noi, creature dell'inferno, che non dormiamo da un mese sperando che lei venga al bar per una volta senza il marito e poterle dire buongiorno signora. Если ворона в вышине, дело стало быть к войне, а если дать ему кружить, а если дать ему кружить, значит всем на фронт идти, чтобы не было войны. Надо ворона убить, чтобы ворона убить, чтобы ворона убить, надо ружье зарядить. Oggi mi piacerebbe parlare di tradimento. Chiamate se siete traditori, oppure fedeli o traditi, oppure anche traditi magari con una persona, oppure con una macchina, perché oggi ormai la grande moda è tradire con una macchina, tradire su Facebook, tradire in chat. E sento già serpeggiare la frase storica, la frase immortale, la frase che andava bene ai tempi di mia nonna, è sopravvissuta ai tempi di mia madre, ai miei tempi, e ancora oggi è vivissima. Quella puttana mi ha rubato il marito. Senti, non dirlo. Un marito non è un ombrello. Se lo guardi bene da vicino, ha tutto. Ha le sue manine, i suoi piedini, il suo sessino, il suo libero arbitrino. Nel furto avrà avuto sicuramente una parte attiva. E rispondendo alle lettere d'amore, no? A quel lavoro che faccio da moltissimo tempo, mi sono così confermata nell'idea che il matrimonio è un'istituzione fondata sulle corna. Quando venne il divorzio, quando ero giovane, ci fu un momento di grande euforia, nel senso che sembrava che sarebbe venuto il regno dell'onestà. Adesso c'è il divorzio, le corna diminuiranno dell'80%. Ma che? È uno sport attivissimo. La lettera tipica che ricevo da una donna è questa: sono sposata con un uomo meraviglioso. Non ho veramente nessuna critica da fargli. È caro, è perfetto. E seguono 5 righe di elogi del marito. A questo punto, stai tranquillo, seguono le corna. Dopo questo elogio sperticato, mi sono innamorata di un altro. Ma non voglio dire, mai che tradissero un mascalzone. No, sempre l'uomo perfetto, come se questi uomini perfetti noi ce li prendessimo poi alla fine soltanto per farli becchi. Oppure un'altra storia tipica, mi sposo con Gianni, ho 24 anni, sono laureata, ho un lavoro, quindi... Ma amo Franco, ma come sarebbe? Ma come? Ma sei giovane, voglio dire, come si diceva, hai tutta la vita davanti e te la puoi fottere così. E poi non parliamo degli uomini sposati, che vanno come non mai. Che traffico, ragazze, ma in barba alle permissività. Живописцы, окуните ваши кисти в суету дворов арбатских и в зарю, чтобы были ваши кисти словно листья словно листья к ноябрю, чтобы были ваши кисти, словно листья к ноябрю. Per la mia esperienza personale, devo dire che la fedeltà è molto emozionante. La fedeltà non è un principio, perché come principio varrebbe poco. La fedeltà è una raffinata forma di felicità che la maggior parte, indaffarata dal raffare, non conoscerà mai. Anche se poi, chi è veramente fedele? Perché l'infedeltà è nel fondo di un sorriso, di un sogno, di un gesto non fatto. E infatti c'è questo sacrosanto detto popolare: il cornuto ha sempre ragione. Io credo nel suo torto di non essere amato abbastanza. Poi c'è la parola detestabile, la parola che sento sempre, che anche quella antichissima, e sopravvive, definendo le corna di solito maschili, perché le corna femminili a tutt'oggi sono prese molto sul serio, la scappatella. Ma come la scappatella? Ma allora il tuo matrimonio, o comunque il tuo stare con un'altra persona, è una prigionella? Cioè, a me sembra bruttissima. Poi c'è l'idea che si fa la scappatella e poi si torna. Prigioniella. E poi chi non tradisce magari tradisce in sogno. I matrimoni spesso sono fatti anche di questo, tradimenti immaginari che rendono più smaglianti il quotidiano. La fedeltà è virtuale sempre, e oggi è virtuale anche il tradimento, perché appunto basta sedersi in ciabatte. Una volta uno si doveva quantomeno lavare per un appuntamento, e così studiarsi un abbigliamento, studiare. Adesso niente, stai in ciabatte e ti descrivi come se fossi bello come Nefertiti. Ognuno diventa un James Bond, ognuno diventa un George Clooney, stando, o uno Sharon Stone, stando seduto. Per me l'amore è come nel film di Neil Jordan, Intervista col vampiro, dove ci sono questi due vampiri che si innamorano. È il bellissimo L'estate, che era Tom Cruise, quando bacia per la prima volta Luis, che è Brad Pitt, e per quel bacio insieme si levano in volo. Ecco, chi non vorrebbe per un bacio levarsi in volo? Poi un altro modo in cui intendo l'amore è come nei versi di Emily Dickinson, quando scrive: ci giudicherebbero come, poiché tu servisti il cielo, vedi, o cercasti di farlo. Io non potei, poiché tu saturavi la mia vista, e io non avevo occhi per una misera eccellenza quale il paradiso. E poi un altro modo in cui mi piace l'amore, come i cani. Perché i cani sono gli unici che hanno l'eternità dell'entusiasmo. Li porti fuori dopo 15 anni e la loro gioia è immutata. Saltano e vogliono prendere il guinzaglio. I cani sono gli unici che non si abituano all'amore. Mentre noi uomini dopo un po' ci stufiamo anche degli arcangeli. Qui Capitaneria di Porto, è in linea una certa Miriam che chiede di Barbara Alberti. Pronto? Ciao Barbara, senti, io mi chiamo Miriam e chiamo da Roma. Questo è un problema urgente, direi anche vecchio come il cucco, perché io e il mio fidanzato abbiamo prenotato la chiesa per il matrimonio per la primavera prossima. E nel clou del nostro rapporto, una settimana fa purtroppo, io ho osato approfondire un suo botta e risposta che aveva nella bacheca di questo maledetto Facebook con una bella amoretta, una modella, e questi due si incontreranno in data X, ore Y, per una cena al buio. Quindi, scusa, cos'è una cena al buio? Un appuntamento al buio, non si conoscono, si capisce che sono intrigati l'uno dall'altro e che si incontreranno. E il bello è che hanno lasciato la data e l'ora. Quindi io sono chiaramente agitata per questa cosa, però un amico, un caro amico, mi ha consigliato di non rompergli i cosiddetti, diciamo, perché lui mi ama, eccetera, eccetera, e può capitare. Per cui ti chiedo a te, tu che faresti al posto mio? Lo affronteresti? Dunque, io comprerei una veletta, un abito molto elegante, classico. Come ti vesti di solito? Ah, jeans e maglione. Ecco, magnifico. Invece ti vesti come una bellissima signora degli anni 40. Te lo fai apposta, ti fai un vestito, sai, come il film di Brian De Palma, vestito per uccidere. Ti metti lì e vai all'appuntamento. Vado, eh? Sì, mi sembra la cosa migliore. Io non lo so, guarda, io ho sempre sbagliato tutto, per cui do consigli d'amore solo perché sbaglio tutto. La butterai un po' nel gioco. Questo è proprio il terrore del matrimonio. È il terrore del matrimonio, allora. E allora mi dicono di lasciar perdere, di lasciar correre, ma poi sarei cornuta a vita, penso. Oppure ma mi sì, tratterebbe ma come lasciar correre? Ma come? Ma voi due, cioè, io ho un'idea molto tradizionale dell'amore, nel senso, l'amore è fusione. Questo è un nemico, uno che di nascosto si fa degli appuntamenti, e questo si chiama tradimento. Anche se non succedesse mai nulla tra di loro, il tradimento cos'è? Fare delle cose alle tue spalle. E d'altronde, certo, metà della gioia del tradimento è farla in barba a qualcuno. E tu devi essere proprio tu lo zimbello, scusa. Già. Ma scusa, ma una domanda, ma tu sei innamorata di questo? Io sì, a voglia. A voglia quanto? Tanto. Senti, ascolta, oltre a comparti la veletta, pensaci un po'. Perché io ho l'impressione che quando succedono queste cose c'è uno scollamento tra i due che non si è voluto ammettere. Rallenterai un po' l'andatura. Intanto mi divertirei a questo appuntamento non proprio da, ma di renderti irriconoscibile. Irriconoscibile, ma bellissima però, non irriconoscibile farsesca. Non patetica. Non coi baffi, esatto. No, ti devi mettere bellissima, vai lì e poi vedi che cosa succede. Però, non è patetico, no? Però, no, non è patetico, è molto giocoso, è molto giocoso. Dipende con che spirito ci vai. Se ci vai con la pistola nella borsetta, devo dire, poi è un'altra cosa. Però sai cosa c'è? Io credo proprio che tu non lo ami questo. E sai perché? Perché se tu lo amassi, altro che strategie, quando ti consulti con un amico, vuol dire che il parere dell'amico è più importante del tuo uomo. E no, io stavo facendo un'azione. Poi sono stata come trascinata psicologicamente. Dice, guarda che te lo perdi così. Cioè, ma non è mica un ombrello un uomo che si perde? Ma che discorso? Crepando. Ma senti, ma perché vi sposate? Non è che ci sono di mezzo le famiglie per caso? Perché sai, ormai. Ti posso dire una ccosa? Io ricevo un sacco di lettere di storie d'amore, appunto, perché curo la posta del cuore. Ma lo sai che tantissima gente si sposa perché ha già comprato la camera da letto. Tantissima gente sacrifica la vita a delle poltrone. Ma no. No, voglio dire, oppure perché gli amici se lo aspettano o i genitori se lo aspettano. Che poi, ragazzi, la vita è la tua. Ti trovi chiusa in una casa con una persona di cui non sei convinto. Guarda che il matrimonio è un gesto insano. Per compierlo bisogna essere innanzitutto amici, divertirsi enormemente l'uno dell'altro. Io ho l'impressione che qui agisca molto il fatto esterno. Perché altrimenti saresti corsa da lui e gli avresti detto, ma come? Che sta succedendo? Perché? No, ma io lo stavo per fare e sono stata frenata. Da chi? Dall'alcol e da un amico. Ecco, appunto, perché sei andata prima dall'amico che dal tuo uomo. Guarda che il confidente in amore ha più potere dell'innamorato stesso. No, Barbara, io avevo appuntamento con questo amico, ho visto questa cosa e sono uscita. Ed ero incazzatissima quel giorno e quindi proprio non c'è stato modo. E a quel punto mi sono sentita una cretina per quello che avrei fatto. Invece adesso, sinceramente, cioè, mi stai dicendo quello che avrei fatto io. Sì, però vedi tu, dai retta all'amico, dai retta a me, ma tu dovresti dare retta a te stessa, però, scusa, mi parrebbe più sano e anche più divertente. Tu perché ami questo? Cosa ami in quest'uomo? Vabbè, ma noi abbiamo un'unione fortissima, insomma, abbiamo vissuto 5 anni di esperienze profonde, insomma, tante cose. Non e quindi, visto che avete passato 5 anni insieme, per non buttarli, ne vuoi buttare altri 50? Non è così, dai. L'amore c'è. Comunque era una domanda trappola, perché io ti ho chiesto perché lo ami, perché di solito se uno sa perché ama una persona non è vero, e invece mi ha risposto molto bene, Non si può sapere. Grazie Miriam. Ciao, un bacio, ciao. Ciao. На смену декабря приходят январи. Нам все дано сполна, и радость, и смех. Одна на всех луна, весна одна на всех. Qui Capitaneria di Porto. Come richiesto, l'attrice Piera degli Esposti è in collegamento. Barbara Alberti è autorizzata a parlarci. Piera, sei tu al telefono? Sì, sì. Ciao. Che carina, con quella voce da suora. Sembri dietro una grata, sì, sì. Ma è quasi, perché ti dico, sono in cima a un faro, per cui... È vero, è sempre un luogo isolato, sì. Sì, è pure un monachesimo marittimo. Senti, Piera, noi stiamo parlando di corna, di questa misteriosa cosa che poi sulla quale è fondata l'amore, perché non so perché, ma va moltissimo. Questo mi fa subito venire in mente le corna, diciamo, quando le ho messe io, la prima volta... Una delle volte con uno dei miei fidanzati, cioè non è fidanzati 300, no, ma insomma parecchi. Dunque questo era è stato un errore fatto da me, un errore tecnico. Diciamo, io ho lasciato la segreteria telefonica aperta mentre dicevo a un ragazzo con cui stavo facendo le corna al mio compagno, e stavo dicendo a questo ragazzo: io mi sono messo un foulard perché non si veda il piccolo succhiotto, no? E così mi sono messa questo foulard e vedrai che non se ne accorgerà. Ecco, però forse lo foulard è piccolo, forse devo andarne a comprare uno più grande. Ebbene, perché era enorme questo succhiotto. No, ma, insomma enorme no, ma rimaneva un po' scoperto dal foulard piccolino. Dunque finito esco perché avevo un appuntamento di lavoro dove sono andata col mio compagno. Il mio compagno era molto sorridente, un po' ironico. Diceva: allora adesso andiamo all'appuntamento. Sì, sì, andiamo. Andiamo a questo appuntamento. E dopo dice: adesso dove andiamo? Andiamo a comprare qualcosa? Dico: beh, non so, magari adesso facciamo ognuno le cose che dobbiamo fare. No, dice lui, io al pomeriggio. Perché non andiamo a comprare un fazzoletto? Come un fazzoletto? Sì, no, perché non andiamo a comprare un foulard, per esempio? Ridendo, no? Allora io ho detto: ma un foulard? Mentre avevo questo piccolino che tendevo sempre la mano a coprire. E lui dice: purtroppo tu hai lasciato la segreteria aperta. Ma così, sorridendo, e credo di non aver mai visto un dispiacere, diciamo, dimostrato col sorriso. Un dispiacere vero, capisci? Sì. Che io ero stata traditora, insomma, no? Dopo io sono stata con la paura che lui mi facesse le corna, cosa che è successa. E io sono diventata idrofoba di gelosia, che la gelosia, si sa, è peggiore dell'invidia. La gelosia e l'invidia non sono reggibili. E poi si somigliano. Forse. Perché nella gelosia c'è anche l'invidia dell'amore che l'altro ha in più. Ma e tu continuavi a stare, mentre eri idrofoba, continuavi a stare con l'altro ragazzo? Io continuavo e anche lui continuava a stare con me. Solo che dopo lui non è stato più leale. Il tradito mi ha tradito. La cosa incredibile era che lui, essendo molto più giovane, si supponeva che io fossi più quieta. Invece io sono sempre stata così curiosa e irrequieta perché io non ho mai avuto marito. E dunque sono stata più libera delle donne maritate, no? Certo. Poi, non essendo una persona con un trasporto fisico o sesso, insomma, ci sono persone che hanno bisogno molto di questo esercizio ginico. Ecco, io no. Invece io ce l'ho nella testa e dunque chiaramente questo esercizio nella testa porta a prendere delle cotte. Sono una grande cotarola, no? No, sono, ero, beh, adesso sono diventata brava per forza, no? Una signorina matura. E fa meno conquiste, insomma, là dove c'era un mercato pieno di gente, un po' un deserto, vabbè. Ma e come fai a frenare questa predisposizione alla cotta? La predisposizione alla cotta la vivo nella testa, perché sono stata una piccola Don Giovanna, cioè volevo soprattutto la conquista più che la continuazione con l'affetto, con gli altri che si sposano, vogliono vivere insieme, no. Io soprattutto volevo la conquista. E adesso sarei spaventata del rifiuto, no? Della preda, no? Di non farcela più. Beh, insomma, ecco, quindi sei un cacciatore di fantasmi di pelle rossa. Insomma, per dire, mi muovo solo nella testa. Grazie, Piera. Grazie, Barbara. Qui Capitaneria di Porto. È in linea una certa Daniela che chiede di Barbara Alberti. Barbara, mi chiamo Daniela e vorrei brevemente raccontare la mia storia. E ho avuto una storia che è durata 11 anni tra fidanzamento e matrimonio e mi sono ritrovata a 3 anni dal matrimonio a subire sulle mie spalle un doppio tradimento. Sono stata tradita come moglie e come donna. Mio marito ha 18 anni più di me. Per caso io ho scoperto un tradimento, aveva una storia, una relazione con una ragazza molto, ma molto più giovane di lui, addirittura 33 anni di differenza, conosciuta su internet, su una chat. Questa ragazza è stata il mio danno ma anche la mia salvezza, perché io ero un satellite che orbitavo attorno al sole, che era in quel caso mio marito, perché per lui avevo veramente rinunciato a tutto, rinunciato ad una vita in compagnia di altre persone, mi sentivo appagata, pensavo di star bene. E quando mi sono accorta di questo tradimento, lui non ha negato, si è messa a piangere dicendo: mi sono innamorato. Mi strega sempre, cara Daniela, la faccia tosta dei maschi rispetto alla differenza d'età. Cioè, una si mette con uno che ha quasi 20 anni di più e pensa già di regalargli la sua gioventù, no? Cioè, voglio dire, c'è una disparità, diciamo, no? E invece no. e invece lui si mette con una di 33 anni più giovane. Quando io dico doppio tradimento intendo il fatto che io mi sono sentita tradita anche come donna. Sì, ma senta, nonostante io sia giovane, mi senta giovane, mi sono sentita automaticamente vecchia. Cioè, sì, una certo. Donna di 35-36 anni, sentirsi... Ma gliene potrei raccontare, guardi, vuole che le racconti un episodio a proposito di questa cosa. Una mia amica di 50 anni, male amata, imbruttita precocemente, che d'un tratto si fa vivo il grande amante della sua gioventù. Quando avevano 19 anni, con questo francese si erano amati, ma senza congiungersi. Dopo 30 anni lui la cerca come un affamato, dice, dal rivedere questa donna ne va della mia vita. Capirai, questa che era già una racchia, diventa bellissima, si illumina tutta, sai che c'è la faccia d'amore che altro che i chirurghi, voglio dire, non c'è lifting che possa... Insomma, questa si fa bellissima, si compra la biancheria sexy, finalmente si rivedono in albergo, però lei prudentemente ha preso due stanze, dice, hai visto mai, sono passati 30 anni, voglio essere sicura di essere voluta. Voluta, volutissima. Non fanno in tempo a finire di bere il pernod rituale, che lui la sbatte sul letto, per dritto, per traverso, per giù, per su, tutta la notte. Come lei non era mai accaduto, e come forse a tanti non accade mai nella vita, voglio dire, perché mica ci vuole anche fortuna. E quindi lei, dopo questa notte indemoniata, si addormenta, al risveglio si accorge che lui la sta guardando. Si sente Isotta, si sente Giulietta. E lui le dice, lo sai, è la prima volta che ho una vecchia nel letto. Lui in quel momento diventava lui Lolita, buttava la vecchiaia addosso all'altra, quindi il tuo perverso marito butta la sua vecchiaia addosso a te, va con questa ragazza molto più giovane, che poi sai che c'è Daniela, che noi donne ci raccattiamo tutti, questo è straordinario di noi, e lo dico senza rammarico, penso, perché la donna è un animale sognante. Tuo marito, anzi, mica esiste, dici, tuo marito te l'hai reinventato tu, la favola del principe del rospo è vera, nel senso che per il bacio della principessa il rospo resta rospo, perché tale sarà sempre, ma lei lo vede come un principe. Noi ci inventiamo i maschi che abbiamo accanto. Te ne eri inventato uno, per fortuna si è dissolto nella nebbia, ora c'è la vita, come dice Sandra, la vita con le sue cose sorprendenti. Io ho avuto paura veramente a ributtarmi in una storia, perché questa è una storia che mi aveva assorbito. Daniela, ti interrompo, meno male, ma goditi un momento di solitudine, che non ci stiamo mai soli, pensati da sola, perché la grande libertà quando ci si separa è sempre un trauma, un dolore, una catastrofe, ma tuttavia d'un tratto sei solo, e per le piccole libertà, alla mattina alle 3 ti svegli a prendere un appunto, nessuno ti dice perché, la mattina hai una faccia che non sai neanche perché ce l'hai così, la persona ti dice che hai, e sei obbligato a tornare allegro. Prenditi queste piccole libertà che fanno crescere la mente e l'immaginazione in un modo utile e mirabile. Io come la Fenice adesso, mi sento adesso a 40 anni una bambina, perché sto risperimentando adesso ciò che non ho potuto fare negli 11 anni di matrimonio. Daniela, sono entusiasta di vedere in te una persona che non si è aggrappata, perché le mogli si aggrappano. E questo è brutto per loro, perché è una specie di difficoltà mentale, di mancanza di immaginazione, di cambiare scenario. Течёшь, как река, странное название, и прозрачен асфальт, как в реке вода. Ах, Арбат, мой Арбат, ты мое призвание, ты и радость моя, и моя беда. Ах, Арбат, мой Арбат, ты мое призвание, ты и радость моя, и моя беда. Quando erano due giovani sposi, il papà era il più bello del paese, era molto richiesto, era il grande giocatore di poker, e lei era una donna anche molto carina, era una donnina molto curata, come diceva lei, aveva dei modelli da artista del cinema, e fuori la guardavano molto i maschi, perché era sempre appunto molto carina. Arrivata a casa, mia madre si trasformava in un mostro, cioè al marito doveva dare il peggio. C'aveva una vestaglia sfrittellata, i bigodini stretti, le calze bracalente e poi in faccia delle creme verdi, oppure alla chiara d'uovo che sembrava morta. E come si fa a presentarsi in un letto così? Beh, lei ci si presentava, perché allora non c'era il divorzio. Una volta che avevi acchiappato il marito era tuo, non si poteva fare niente. Quindi, quasi con un certo gusto, dopo averlo affascinato con la sua eleganza, con i suoi modi gentili, era scappato fuori il mostro. Così mio padre spesso si fidanzava fuori di casa e lei era gelosa da morire, ma gelosa in maniera poliziesca, gelosa che controllava tutto, ma forse non abbastanza, insomma. Nell'estate del 56 mio padre comincia a andarsene tutto curvo e a dire: sto malissimo, i reumatismi, devo andare ad Abano a fare i fanghi. E mia madre sorride, non dice ma con chi, ma come. Mia madre lo lascia andare, e lo lascia andare perché ha un segreto. Perché lei, che era un'economa tremenda, una che non ci comprava mai i topolini, una che affamava le serve, eppure già allora in quell'Umbria selvaggia degli anni 50 pagava un investigatore privato perché sorvegliasse il marito. Si veste, va a Perugia da questo, era l'unica cliente. Questo stava col cappotto in ufficio perché non aveva riscaldamento, i sorci che sfrecciavano come a casa loro. Quindi era molto al servizio di mia madre. E lei dice: guarda, Alvaro Alberti, Abano Terme, Albergo Tadalitali, controllare. E lui si mette alla ricerca. Intanto mia madre fremeva, ma non perché voleva essere rassicurata. Lei voleva le corna, perché il geloso le corna le vuole, se le tira in fondo se le merita. Perché nel geloso il poliziotto supera l'innamorato e quindi lui non vuole l'innocenza del reo, lui vuole il reo, vuole il colpevole, vuole la preda, vuole azzannargli il collo. E mia madre aveva molte speranze in questo senso perché aveva capito benissimo la storia. E allora finalmente l'affamato la chiama anche per avere un anticipo, perché poi mia madre era avara, l'anticipo lo dava una volta che c'era la notizia, e racconta che il marito ad Abano Terme c'è stato giusto una notte per l'alibi e poi se l'è filato a Venezia con una donna. E mia madre già si ringalluzzisce tutta, molto bene, dice: finché ci arrivavo da sola, ma chi è questa? E dice che non lo paga finché non saprà. Quello lì, poveretto, che non mangiava da 3 giorni, si attiva moltissimo. Intanto però dà a mia madre il numero dell'albergo di Venezia. E allora lei chiama: pronto, c'è il signor Alberti? E risponde: no, però c'è la signora, se vuole gliela passo. Mia madre riabbassa, ma era il colmo della felicità, trionfo, beccato, lo tiene in pugno. Chi è questa, come si diceva ai tempi, che va con un uomo da moglie? Un uomo da moglie, cioè un uomo sposato. Intanto, nell'attesa, mi ricordo, si faceva dei cappellini, si faceva dei taglierini, perché doveva andare lì in divisa da moglie tradita, ma bella, ma insomma che... Allora, il Segugio, finalmente, da un suo corrispondente, da un suo agente di Venezia, più affamato di lui, finalmente gli passa questa informazione, viene a sapere che è una signora di Umbertide, vicina di casa, amica della mamma, e anzi che era stata testimone di nozze. Sta con la cornetta in mano per chiamare mia madre, e in quel momento si precipita un giovanotto nel suo ufficio: fermo, fermo! Se parli ci scappa il morto. Chi era costui? Questo era lo zio Betto, il fratello della mamma, il quale la conosceva bene, e dice: guardi che se lei passa questa informazione alla sua cliente, lei sarà responsabile di un assassinio, perché mia sorella ha già il coltello nella borsetta. Lo zio lo corrompe, gli dice: senti, quanto vuoi? Subito. E lo paga subito. E allora passano una notte bevendo birre, fumando giubbe col filtro, una notte di creazione in cui fanno venire fuori il personaggio. Il personaggio è Rosita Vargas, ovvero un personaggio screditante. Inventano Rosita Vargas, la zoccola colombiana, un avanzo di galera che era sbarcata in Italia con l'ottava armata, quindi già un po' vecchiotto, un po' passata, siamo nel 56, un cimelio che se l'erano fatta tutti, americani, inglesi, marocchini, indiani, si diceva persino un Setter Gordon, e insomma che chiunque gli avrebbe fatto schifo a toccarla, meno che a mio padre. E quindi l'investigatore ha buon gioco a dire: signora, non si sporchi, lo aspetti a casa, dopo lì gli dà un sacco di tortorate, però non si sporchi con una persona del genere. Infatti mia madre, tranquilla, arrota il bastone, pregusta la vendetta, un'attesa dolcissima, e me la ricordo cantava, andava per casa, era persino gentile con tutti, lei che ci massacrava di schiaffi, proprio come sfogo personale, era il grande sfogo sadico. Allora non c'erano le fruste, le coppie si appagavano così, dando un sacco di tozzoni ai bambini, però appunto lo mettevi in conto. E allora lei si affaccia alla porta, drin, finalmente è arrivato. Le tremava il cuore molto più che ai primi appuntamenti. E lei dice, allora come sono andati questi fanghi? E lui dice, bene. Parte uno schiaffo. Lui corre nel giardinetto, inseguito dalla moglie. Io mi ricordo una festa e lei lo ha veramente, gli ha dato un sacco di schiaffi. Però lei è morta senza sapere che Rosita Vargas non esisteva. E hanno litigato fino alla morte per questo, perché mio padre aveva messo da parte un patrimonio di corna da giovane, perché così ebbero sempre qualcosa da dirsi fino alla morte. E quando parlavano di Rosita Vargas era il loro modo di sedursi. Passava una fiamma ridarella, una specie di desiderio umano. Io sono mai stata cornuta, ma che io sappia, una volta sola. A me piacciono gli uomini buoni. Io li trovo avventurosi, emozionanti, perché il cattivo è molto noioso, sa fare solo quelle tre cose: pugnalarti alle spalle, tradire, mentire. Beh, in una settimana ho già imparato tutto, ho già capito tutto e ho già capito che non mi interessa, che non mi diverte, che non mi porta da nessuna parte. La persona buona, che sia uomo, donna, bestia, quello che sia, ti stupisce sempre. Perché per essere buoni occorre, cioè la bontà stessa in sé è una forma superiore di intelligenza. E quindi, ecco, una volta sono sbagliato e mi sono messa con un cattivo, cioè con un egotico bestiale che non si rallegrava mai degli altri, anzi che passava la mattina a leggere il giornale dicendo «Ne, quanto è cretino questo! L'unico napoletano insopportabile che abbia mai conosciuto, che sono i miei preferiti in tutto, anche per la bellezza della lingua». Comunque, io non riuscivo a lasciarlo questo qua. A un certo punto, quando ho capito che era uno sbaglio, ho fatto di tutto e glielo dicevo, non ci voglio più stare con te. Però, purtroppo, una sola cosa è più difficile che farci amare da un uomo che ancora non ci ama. Lasciarlo quando non ci ama più. Perché a lui di me non gliene importava più nulla, era più stufo di me. Eppure insisteva. Meno mi amava e più insisteva. Finché vengo a sapere che non passava le notti a giocare a poker, come mi diceva. E che per me era un sollievo comunque. No, andava dal suo ex amante, da quella che aveva lasciato per me. Beh, ragazzi, che festa. Io sono stata avvertita. Ho chiamato un'amica e ho detto «Ehi, finalmente, ho le corna, finalmente!» E questo la dice lunga anche sul gusto del tradimento, che ha poco a che fare con l'amore, che è un gesto proprio di goduta perfidia, perché questo signore avrebbe potuto farlo apertamente, con soddisfazione sua, mia e anche della sua ex fidanzata che era tornata attuale. No, lo devono fare alla faccia di qualcun altro. Qui Capitaneria di Porto, come richiesto l'attrice Nancy Brilli è in collegamento. Barbara Alberti è autorizzata a parlarci. Pronto, è Nancy Brilli? Sono io. Ciao Nancy, il nostro argomento molto semplicemente sono oggi le corna. Ovvero, cosa pensi tu di questa cosa? Quali sono le tue esperienze personali? Sì, per me il tradimento è proprio una cosa sbagliata a tutti i livelli, è una cosa che non mi si può fare. Non lo trovo divertente, conosco moltissime donne che tradiscono per disimpegno, per rimverdire il rapporto anche. Ho sentito più di una volta dire questa cosa. Diceva mia nonna, i maschi tradiscono per sorridersi allo specchio. Tu pensi anche le donne? Sì, ma guarda che questa è un'invenzione letteraria, secondo me. Gli uomini e le donne fanno le cose perché gli va di farle, punto. A te è successo di scoprirti ingannata in amori, in amicizia? Ha voglia. Ci sono storie che si sono chiuse dal momento in cui finalmente avevo la certezza del tradimento e quindi così per poi sentirmi dire no, ma non contava niente. E dico, allora pensa che cosa hai perso per una cosa che non contava, ma perché tu avevi dei sospetti. Sì, però è anche vero che quando una è molto innamorata spesso si riesce a credere quello che vogliamo noi stessi farci credere. Ero convinta di essere unica e irripetibile e probabilmente in qualche modo lo ero anche, solo che stavo insieme a una persona che aveva bisogno di rassicurazioni e le andava a cercare nel consenso femminile. Sì, infatti gli insicuri sono una piaga in amore, sì. Perché non fidandosi di sé non si fidano di nessuno. Infatti infatti poi la paghi tu, infatti. Ma non soltanto in termini di corna, anche in termini di sentirsi sminuiti. Non solo, ma tutto quello che c'è stato fino a quel momento, negli ultimi tempi, da quando è cominciato quest'altra storia, è falso, è impensabile, cioè ti ruba tutti i ricordi da quando c'è questa storia. Sì, sì, sì, azzera, sporca. Io non so come si faccia a far finta di niente, non è vero, c'è stato, ti puoi far andare bene per comodo. E tu immediatamente hai rotto? Io sì, peraltro mi è stato anche detto, io te l'ho fatto apposta per farti soffrire. Ah, le scuse sono molto peggiori del fatto, devo dire. Sì, in che momento sei diventato il mio nemico? Non ho capito. Se tu mi ami, vuoi il mio bene o no? E magari fosse. Senti, ma tu non hai mai tradito? Sì, ma anche io per disgrazia, per dispetto. Poi è così umiliante da dire. Ma per dispetto, cioè per ritorsione di una cosa che ti era stata fatta? Sì, sì. Corno contro corno, vuoi dire? Sì, sì. Per un periodo ero convinta che tu uno, allora io 10. Ah, così a freddo? Sì, sì. Ah, terribile. Sì, brutto. Sì. Salire nei letti per ripicca è veramente un... detto, è proprio umiliante. A parte il fatto che hai sempre a che fare con persone, per cui il terzo, povero Cristo... Il terzo comunque è uno strumento, Cristo. Certo. Lo stai usando. I rapporti d'amore diventano le prove di forza. Allora, delle lotte di potere e non, ma chi se ne frega? Meglio soli. Sì, senti, tanto la conclusione è sempre quella. Sì, ma c'è una purezza nella solitudine, nella purezza di pensiero. Però, quando sei innamorata, tu sei totalmente fedele, cioè voglio dire, sei fedele in pensieri, parole, opere? Sì. Tu vai a fondo, sei totalmente presa da una persona? Sì, sì. Se non è così, significa che mi manca qualcosa e mi sto andando a cercare qualcosa da un'altra parte. Conosci il piacere dell'amore totalizzante? Perché secondo me non ce n'è un altro. No, è bellissimo. Quando sono un po' innamorato, va bene, non te ne frega niente. Ma no, no, non è vero. Si può anche essere un po' innamorati, però quando ti dai completamente a una persona e vedi solo quella, rischi di soffrire moltissimo. Però, insomma, è un rischio che io mi voglio concedere. E poi tradimenti di amici o di amiche? Mi fanno ancora più orrore. Allora, mentre nel tradimento tra uomo e donna, o comunque tra compagni, posso arrivare di più a capirlo, il tradimento in amicizia no, non mi sfugge proprio completamente il senso. Quelli che sono molto amici e poi dopo ti piantano un coltello nella schiena, secondo me sono... persone di razza inferiore. E poi ti dicono che ti volevano tanto bene. Ma sì, come, sì. Io ti voglio tanto bene. Poi ti perseguitano perché ti vogliono bene, sì. A te mai è capitato di tradire? Amici no, mai, proprio mai. Mi può essere capitato di aver fatto del male a qualcuno, ma per incoscienza, non c'era premeditazione, mai. Questo proprio di fronte al giudizio universale. E poi hai cercato di rimediare, di farti perdonare? Di... Quando ho fatto danni, sì, perché mi è pure capitato di fare dei danni, ma inconsapevolmente. Quantomeno ho chiesto scusa. Io sono una grande egoista, anch'io chiedo scusa perché voglio pareggiare i conti, voglio stare in pace. Non chiedo scusa, mi adopero, anche se ho capito ormai che i gesti sono eterni. Ci sono persone che non mi vogliono più vedere, magari per delle goffaggini, e secondo me hanno ragione. No, le goffaggini non andrebbero perdonate, perché le persone devi capire come sono. Beh, la goffaggine è sempre però un modo per non riconoscere l'altro, è un modo per passargli sopra, voglio dire. Ma no, ma se no, vengo a casa tua no, e rompo le porcellane per goffaggine, tuttavia è un fatto. Sì, hai fatto, però non era premeditato e può essere somara. Secondo me questo, guarda, sai cosa ti dico, Nancy? Secondo me è un aggravante. Se mi devi fare del male, fammelo apposta almeno. Vabbè, questa è una frase bella, però non è così. Tu perdoneresti comunque, la goffaggine la perdoneresti? Sì, uno che fa casino perché è impedito, lo perdono. Uno che premedita, no. Allora grazie Nancy, grazie a te e al tuo raffreddore. Grazie a te, un bacio a tutti, ciao. Oggi è finita, fra un po' mi staccano la corrente e allora vi lascio con una poesia di Erik Fried che si intitola È quel che è, e ringrazio anche la mia amica Fiona Diwan che tanti anni fa me la fece conoscere. Musicant в лесу под деревом наигрывает вальс. È assurdo, dice la ragione. È quel che è, dice l'amore. È infelicità, dice il calcolo. Non è altro che dolore, dice la paura. È vano, dice il giudizio. È quel che è, dice l'amore. È ridicolo, dice l'orgoglio. È avventato, dice la prudenza.